Europa 24. Calandra, benvenuti ad una nuova puntata di Europa 24. Oggi andiamo all'interno delle carceri italiane, carceri sempre ancora troppo piene, carceri che sono una delle spine nel fianco del nostro paese, che in estremis ha evitato pesantissime sanzioni dall'Europa, ma non ha ancora del tutto superato l'esame. Facciamo il punto. Per ora promossa, prossima verifica giugno 2015. L'Italia evita una stangata da 100 milioni, ma le carceri italiane restano un sorvegliato speciale per l'Europa. Per questo, anche se la situazione è migliorata, l'Italia dovrà prendere altre misure strutturali contro il sovraffollamento e poi ripresentarsi davanti al Consiglio d'Europa, che ha fissato tra un anno il nuovo esame, dopo aver approvato i risultati ottenuti. Il calo continuo della popolazione carceraria ha elencato e l'aumento dello spazio vitale per ogni detenuto ad almeno 3 metri quadrati. Sono i numeri a mostrare i passi in avanti. 58.092 a fine giugno erano gli ospiti dei 205 penitenziari italiani, comunque più dei 49.461 previsti da una capienza regolamentare. Ma sembra al momento superato quell'inferno di celle dove anche per mettere i piedi a terra bisognava fare i turni, quello che aveva portato la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a condannare l'Italia con la sentenza pilota Torreggiani, che avrebbe potuto aprire appunto una sfilza di altre sanzioni. Quell'inferno che avevamo visto a Poggioreale e a San Vittore, le principali carceri soprattutto di Napoli e Milano, dove restano però le situazioni più critiche. Non c'è lo spazio neanche per poter stare tutti insieme giù dalle brande. A tutti e sei non riusciamo a toccare il pavimento, dobbiamo scendere a turno per poter mangiare. Se il caldo è qualcosa di veramente insopportabile. A volte sei sulla branda e aspetti quell'alito di vento. Non passa un filo d'aria, si crea anche più tensione inevitabilmente. Prendere asciugamani, bagnarli, metterteli addosso per stare un po' più fresco. Cerchiamo di arrangiarci perché purtroppo, essendo 9, l'eccesso di sovraffollamento è enorme. Per queste condizioni molti detenuti sono stati risarciti con una riduzione di pena, eppure questo percorso indicato nella sentenza pilota della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è stato apprezzato dal Consiglio all'interno di un quadro d'insieme dove ad alleggerire la situazione dietro le sbarre ha contribuito pure un'apertura maggiore alle misure alternative. 37.822 i condannati ammessi a servizi in prova o arresti domiciliari nel primo semestre 2014. E in questo anno in che direzione andranno le riforme, considerando le prescrizioni del Consiglio d'Europa? Lo chiediamo a Luigi Pagano, numero 2 del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. L'impressione era sempre che si censurasse un sistema piuttosto che singoli provvedimenti, e credo che l'Italia si sia mossa finalmente come sistema, cioè mettendo insieme sia riforme legislative che azione governativa, ma azione anche dell'amministrazione. Nel giro di un anno siamo colati di quasi 12.000 persone, per la maggior parte peraltro imputati, e nel contempo sono aumentate anche le misure alternative. Si sta delineando quel sistema che l'Europa aveva chiesto ci fosse, in pratica cercare di ridurre il carcere ad estrema ratio. Detenuti possono avere un maggiore spazio sia all'interno della cella, ma anche un maggiore spazio per attività trattamentali, iniziative e quant'altro. Quindi, in vista, diciamo, della prossima verifica tra un anno, credo che il grosso sia stato fatto. Vanno create delle interlocuzioni tra i diversi campi, il monitoraggio evita una disattenzione che nel passato c'è stato, abbiamo corso abbastanza, però Strasburgo ci ha riconosciuto che i passaggi e i passi sono stati fatti e possiamo dedicare maggiore attenzione alle attività trattamentali all'interno, ai colloqui con i familiari, sperando che questo monitoraggio, o comunque in ogni caso, tutto il lavoro che è stato fatto venga adesso supportato non soltanto dall'amministrazione, dal potere politico, ma anche dalla società. Questo sguardo così anche un po' pressante da parte dell'Europa, diciamo, è un vincolo per impegnarsi a rispettare questo cammino di riforme già fatte. Quando ti mettono dei limiti, delle sponde, lavori molto meglio. Non ci dimentichiamo anche. Ecco, sono state date anche delle prescrizioni precise, no, all'Italia. Grosso modo sono quelle che poi il ministro aveva già portato a Strasburgo. Abbiamo preso questa condanna di Strasburgo come un'occasione. Il percorso dunque per avere carceri dove la pena venga sì scontata ma in condizioni dignitose è avviato ma non terminato, e l'Europa anche su questo ci tiene d'occhio. Europa 24 termina qui, un saluto a tutti voi da Raffaella Calandra. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.